Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Vanni Masala, giornalista, scrittore, organizzatore del Bologna Jazz Festival, che è in collegamento con noi. Ciao Vanni, benvenuto a Radio Città Fujiko. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. In questi giorni, proprio al Cinema Galliera, viene proiettato un film fino al 24 novembre, Jazz Noir, indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet. Vorrei iniziare questa intervista chiedendoti innanzitutto le motivazioni del mistero che ruota attorno alla morte di Chet Baker e le motivazioni che poi hanno spinto alla produzione di questo film. Devo dire che Chet Baker, la figura di Chet Baker ha sempre ispirato il cinema. Lui stesso, fin da giovane, bello come James Dean e maledetto come Arthur Rimbaud, era cercato dai registi. Ricordiamo che in Italia lui esordì in un musicarello cantando la canzone di Bindi Arrivederci, dopodiché si dedicò anche alla produzione di musica da cinema con Nanni Loi, per l'audace colpo dei soliti ignoti, fino a quello che secondo me rimane il suo ritratto principale, che è quello del regista e fotografo Bruce Weber, che alla fine degli anni Ottanta ha prodotto Let's Get Lost. E perché il mistero? Il mistero perché la vita di Chet Baker è una vita... è una vita disperata, è una vita che non ha mai avuto dei contorni ben precisi. La sua enorme capacità artistica faceva il paio con una vita da tossicodipendente, da strada, direi così, addirittura che venne anche più volte malmenato dagli spacciatori e che condizionò tutta la sua esistenza, per cui la sua stessa morte è avvolta da questo mistero. È caduto, è stato ucciso, è stato spinto. Il film, che è questa pellicola del regista olandese Rolf van Eyck, incomincia appunto con la morte improvvisa di questa icona del jazz, che avvenne in un albergo nel quartiere a luci rosse di Amsterdam nell'88, e ripercorre i suoi ultimi giorni di vita con una forma diciamo narrativa da fiction, in cui c'è un investigatore che affronta i suoi fantasmi ripercorrendo i fantasmi di Baker. Chet Baker, musicista che come tanti è passato anche dall'Italia, è passato anche da Bologna. Ti vorrei chiedere se tu sei qualcosa di più rispetto al rapporto con la città e questo musicista. Chet Baker fu adottato in qualche modo dall'Italia, nel bene e nel male, perché non dimentichiamo che lui passò un anno di carcere proprio per i suoi problemi di tossicodipendenza a Pisa, mi pare, in Toscana comunque. Poi a Bologna trovò invece un clima di appassionati di jazz e di persone che lo ammiravano per i suoi grandi doti e che in qualche modo lo accolsero. Lui qui suonò tantissimo, fu un dentista bolognese che gli rifece gratuitamente i denti che gli erano stati spaccati da degli spacciatori. In qualche modo questo curiosamente influì anche sulla sua musica, perché dopo l'intervento ai denti Baker non era più il trombettista scattante, agile dei primi tempi, e divenne più riflessivo, cominciò a prediligere addirittura il canto. Questa è stata una fortuna per il mondo della musica, perché Chet Baker non era solo un grande trombettista, fu anche un grande cantante. A proposito del rapporto con Bologna, posso dire che io lo vidi in concerto diverse volte, l'ultima volta in un club a Borgo Panigale. Dopo il concerto mi fu chiesto se volessi intervistarlo. Io sbirciai nel camerino e vidi che lui non si reggeva in piedi, insomma era gonfio di alcol e chissà di quali altre sostanze, per cui dissi di no, e 60 giorni dopo sarebbe morto, e questo è una cosa qualcosa di cui mi sono sempre pentito. Vanni, io ti ringrazio per queste parole, per questa chiacchierata, e invito tutte e tutti ad andare a vedere questo film Jazz Noir, indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet, che si terrà al Galliera fino al 24 novembre. Quindi ancora grazie. Grazie a te e buongiorno a tutti.